Buonasera dalla voce di Marco Gravelli e venerdì, lo spazio di Arden Davy, come sempre tutti i venerdì va a proporvi, o quasi sempre perché a volte inseriamo anche delle interviste e sarà così anche nel futuro, però generalmente abbiamo lo spazio suddiviso in due parti con grandi live album, uno dedicato al mondo hard rock e un altro dedicato al mondo metal. Lui sta a metà strada sia del metal che della rock. Lui in questione ha un nome che poi vi spiegherò lunghissimo, anch'io per la prima volta l'ho letto quest'oggi dando uno sguardo alla biografia preparata dal nostro autore Simone. Sto parlando di Yngwie Malmsteen, che avremo modo di proporre con il suo primo live album, Trial by Fire Live in Leningrad. Questo è il titolo dell'album. Saluto naturalmente tutti coloro che sono all'ascolto e il nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano. Questo suo primo live album venne pubblicato nel 1989. Arrivava a seguito di 4 album in studio e, come dice il titolo, Live in Leningrad è stato registrato in Russia perché in quella nazione l'album dell'epoca Odyssey aveva avuto un grandissimo successo. Ci sono dalle 10 alle 11 tracce. Io ho una versione in vinile di 10 tracce, però esiste anche il CD un vinile con 11 tracce, 3 delle quali sono strumentali, e l'ultima, Spanish Castle Magic, è la cover del grande Jimi Hendrix. La formazione dell'epoca è la seguente: Yngwie alla chitarra, Jolie Turner, grandissima voce, Jen Johnson, tastiere, che attualmente è negli Stratovarius, Barry Dunaway al basso e Anders Johansson, batteria, che attualmente è negli Hammerfall. Il primo pezzo che vado a proporvi si intitola Deja Vu. Thank you. Déjà Vu, grande pezzo, grande album, in effetti vi renderete conto pian piano mentre vi propongo le canzoni, logicamente tutte in meno di 30 minuti non ci stanno. Allora iniziamo a parlare della sua carriera, della sua storia, come al solito dicevo, preparata dal nostro Simone. È considerato uno dei migliori chitarristi, il più veloce, soprannominato in alcuni paesi il Paganini dell'heavy metal. La sua discografia è sempre stata, come vi dicevo, a metà tra l'heavy metal ed un hard rock, e tutto sempre rivisto in chiave neoclassica. Inoltre ha anche composto un'opera per orchestra e chitarra pubblicata nel 1989 nell'album Concerto Suite. Lui arriva dalla Svezia, 44 anni, nasce in quel di Stoccolma. Il vero nome, eccolo qua, è lunghissimo, è Lars Johan Yngwie Lannerback, quindi Malmsteen non c'è, è sicuramente uno pseudonimo. Ha influenzato numerosissimi chitarristi attuali, tra i più recenti Timo Tolkki degli Stratovarius e Michael Romeo dei Symphony X. A sua volta è stato ispirato dai grandissimi Jimi Hendrix e Ritchie Blackmore. La sua prima band viene fondata a 13 anni, si chiamavano Powerhouse. Nel 77 invece crea i Rising, ispirato dall'album The Rainbow, e che successivamente diventano Rising Force. Registra alcuni demo con i Silver Mountain insieme a Jens ed Andreas Johansson. Questa è la prima parte della sua storia. Andiamo ad ascoltare un altro estratto, proprio il motivo che apre questo vinile, questo live, Trial by Fire, live in Leningrad. Il pezzo si intitola Liar. You can't find Liar, pezzo d'apertura di questo Live in Leningrad, pubblicazione del 1989. Abbiamo ascoltato quindi Déjà Vu e Liar. E dopo aver parlato della prima parte della sua carriera, quando ancora si dedicava alla formazione delle prime band amatoriali, registrazioni di primi demo, viene notato da un famoso talent scout americano che si chiama Mike Varney, e viene messo sotto contratto nella sua scuola di chitarristi. Tutto questo gli permette di trasferirsi negli States, dove militerà in una band chiamata Steeler. Il suo modo di suonare impressiona tutta la critica e il pubblico. Forse non tutti lo sanno che in quell'epoca sia gli UFO, i Kiss e Ozzy gli chiesero di entrare come chitarrista nella loro band, ma Malmsteen preferì entrare in un'altra formazione chiamata Alcatraz, con i quali ha inciso un album in studio e un album dal vivo. L'etichetta, la Polydor Records, fiuta il suo talento e gli dà la possibilità di registrare un album solista. Viene praticamente assemblata la formazione con il nome di Rising Force, che vedeva Jeff Scott Soto alla voce, Jan Johansson alle tastiere e con l'ex batterista dei Jethro Tull. Il debutto arriva così nel 1984, l'album si intitola Rising Force, dove però la maggior parte dei brani è strumentale, quindi per gli amanti della chitarra. È proprio un album imperdibile che non deve mancare nella vostra collezione. Andiamo ad ascoltarci un altro brano, la traccia che chiudeva la side A di questo Live in Leningrad, un altro motivo che all'epoca venne pubblicato anche come singolo, brano intitolato Heaven Tonight. Time. Heaven Tonight. Ricordiamo che qui alla voce, come vi dicevo dall'inizio, c'è Jolie Turner, perché ora pian piano che vi leggerò la storia del personaggio in questione vi renderete conto che di cantanti ne ha cambiati quasi uno a disco. Abbiamo detto del primo, che è stato, lo ricordiamo appunto, con Rising Force, il grande Jeff Scott Soto. Continuiamo quindi segnalando che dopo la pubblicazione del primo album, che ebbe un grande impatto nel mondo musicale, fu seguito nel 1985 da Marching Out, dove i brani erano quasi tutti cantati e la formazione vedeva, oltre a Jens alle tastiere e Mars Jacob, oggi nei Talisman, al basso, Andreas Johansson alla batteria, album che arrivò al numero 9 in Svezia. Segue, eccolo qua, il cambio di cantante con l'ingresso di Mark Bowles, e con lui arriva l'album Trilogy dal sound leggermente più melodico. Nel 1987 Malmsteen ha purtroppo un gravissimo incidente d'auto che quasi lo portò a smettere di suonare la chitarra, ma fortunatamente così non sarà. Infatti il successo commerciale arriva con l'ottimo lavoro dal titolo Odyssey nel 1988, con alla voce, eccoci, con Jolie Turner, già con i Fandango e con i Rainbow. Album che raggiunge il numero 7 in Svezia, 27 in Inghilterra, 46 negli States. Malmsteen si rivela invidioso per le attenzioni che venivano date a Jolie Turner, e quest'ultimo, a causa dell'eccessivo egocentrismo dello svedese, se ne va ed entra nella formazione dei Deep Purple. Ma per fortuna in questo live album c'era. Andiamo a proporre, ascoltare un'altra traccia, una bellissima canzone, la prima della Side B, si intitola Dreaming Tell Me. parte finale di questo assolo, da prima con l'acustica, poi con l'elettrica in questa Dreaming Tell Me, grande ballad appunto per Malmsteen che abbiamo ritrovato con questo estratto dal live album Live in Leningrad. E continuiamo con la storia della band. Abbiamo detto che se ne va Joe Turner per entrare nei Deep Purple, il suo posto viene preso da Goran Edman, che aveva cantato nell'album solista di John Norum e che canterà nell'ottimo album Eclipse, ma che non vendette molto e questo fece perdere il contratto con la Polydor Records. Poi arrivò anche Fire and Ice, un album deludente che gli fa perdere a sua volta il contratto con l'etichetta americana, la Elektra, nonostante arrivò a numero uno in Giappone questo lavoro. Così comincia praticamente così un periodo negativo di crisi per Malmsteen, che terminerà nel 94 quando il successo ritorna con The Seventh Sign, che vede alla voce Michael Vescera, ex Ladness, e alla batteria il bravissimo Mike Terrana. Dopo un altro album è il turno del cantante Mats Levén, ex Swedish Erotica, ora nei Crooks, e del batterista Cozy Powell, con il quale esce l'album Facing the Animal, ottimamente recensito. Da dire ancora che seguono due altri lavori con Mark Bowles alla voce, soprattutto War to End of All Wars. Curiosità riguardo il tour americano di supporto a questo album è che a causa degli impegni di Bowles fu chiamato John Land. Durante il tour, quando mancavano alcune date dalla fine, Jorn però litiga con Malmsteen e se ne va, e se n'è andato, e le ultime date del tour vennero così cancellate. Successivamente c'è da segnalare l'ingresso dell'attuale cantante Dougie White, che ha lavorato nell'ultimo lavoro dei Rainbow, con il quale ha inciso gli ultimi due album e sta anche registrando il nuovo prossimo lavoro, che uscirà sicuramente, e dovremo attendere il prossimo anno, uscirà nel 2008. Arriviamo praticamente alla chiusura dell'ascolto da questo lavoro, Trial by Fire, con Live in Leningrad, con quest'altro motivo, che si intitola You Don't Remember, I Never Forget, e tra pochissimo parte 2 sarà dedicata ai Pantera. seconda parte di Hard and Heavy per l'appuntamento del venerdì sera insieme ai Pantera, la seconda parte con il live ufficiale 101 Proof 101 101. Insomma, leggetelo come volete. Uscito nel 1997 su CD, è arrivato al numero 15 in America. Presenta 16 tracce, delle quali una è un medley e due erano nuovi brani in studio. Le tracce dal vivo sono state registrate in vari concerti scelte dalla band per rappresentarla al meglio. La lineup dell'epoca: Phil Anselmo voce, Dimebag Darrell alla chitarra, Rex Brown basso, Vinnie Paul batteria. Andiamo ad ascoltare subito il primo brano, si intitola Unbroken. Pantera dalla loro live ufficiale, il primo della loro carriera, 101 Proof, primo motivo che abbiamo proposto. Iniziamo, come sempre, grazie alla biografia preparata dal nostro Simone, il nostro autore, a parlare della loro storia, che agli inizi sentirete, per chi non li conosce bene bene o per coloro che li hanno conosciuti solo esclusivamente con gli ultimi lavori, i primi sono ben differenti di sound. I Pantera vengono dal Texas, nascono nel 1981 quando furono creati dai due fratelli Abbott, ossia il chitarrista Darrell e il batterista Vincent Paul. Sin dagli inizi si erano dati dei soprannomi. Darrell in principio si faceva chiamare Diamond e successivamente Dimebag, mentre Vincent Paul si faceva chiamare Vinnie Paul. A completare la lineup furono scelti il bassista Rex Brown e il cantante Terry Lee Glaze. Con questa formazione pubblicano il primo album, 1983, si intitola Metal Magic. Sound differente, era un hard rock influenzato da Kiss e Van Halen, che erano le band che avevano coverizzato agli inizi. Questo gli valse tour di supporto ai Dokken e agli Striper. Stesso discorso vale per i due album successivi, Project in the Jungle dell'84 e Eye and the Night dell'85. E andiamo di nuovo a proporli, a ascoltarli con un altro mega classico. Si trovano tutti in questo album live. Il motivo si intitola Walk. Unless it learns in life. Notary Walk per la formazione dei Pantera nello spazio del venerdì di Arden Davy, quello dal vivo. Siamo al 1985, dopo la pubblicazione dell'album I Am The Night, il cantante Terry Lee lascia la band. Al suo posto entra Phil Anselmo, che aveva militato in una band chiamata Razor White. Il suo ingresso si rivelerà importante per il gruppo, vista la sua attitudine verso sonorità decisamente più heavy metal, meno hard rock. Il risultato fu l'album Power Metal del 1988, che evidenzia un sound più pesante dei precedenti album. Una nota curiosa è il fatto che in quel periodo Dimebag fece un'audizione per entrare nei Megadeth quando cercavano un nuovo secondo chitarrista. Lui fu scelto, ma la sua condizione era che avrebbe dovuto prendere parte alla band, cioè entrare nei Megadeth, anche il fratello Vinnie Paul come batterista. Naturalmente Dave Mustaine disse di no, i Megadeth avevano già un batterista e quindi Dimebag rimase nei Pantera. Al suo posto nei Megadeth arrivò Marty Friedman. Nonostante ciò, i Pantera continuano e nel 1990 arriva l'album fondamentale per il loro futuro corso musicale, cioè Cowboys From Hell, dal sound delle chitarre più pesante ed incisivo. Andiamo ad ascoltare un altro estratto, naturalmente, da questo live, motivo che si intitola 5 Minutes Alone. Let's go. It's Long per i Pantera da Official Live 101 Proof. Siamo arrivati al 1992 quando esce forse il loro capolavoro, Vulgar Display of Power, che arriva al numero 44 in America, 64 in Inghilterra. Segue anche, questo pochi sanno, una curiosa collaborazione con Rob Halford, che all'epoca aveva appena lasciato i Judas Priest e formato i Fight, che erano influenzati dai Pantera stessi. Da questa collaborazione nacque una canzone dal titolo Light Comes Out of Black, suonata dai Pantera ma con alla voce Rob Halford, e fu inserita nella colonna sonora del film Buffy. Il successo commerciale invece arriva alla band dei Pantera nel 94 con Far Behind Driven, che raggiunge per la prima volta la posizione numero 1 nelle charts americane, numero 3 in Inghilterra. Nel 95 Phil Anselmo prende parte ad una project band chiamata Down, che nel frattempo è diventata una band effettiva e che da pochissimo ha pubblicato il loro nuovo album. Nel 96, sempre per i Pantera, esce l'album The Great Southern Trend Kill. Ricordo che stiamo ascoltando estratti dal loro unico album live ufficiale, appunto intitolato 101 Proof, e andiamo a proporre un altro master della band, Cowboys From Hell. We'll be right back. Cowboys from Hell. Siamo agli sgoccioli, ultima parte della storia della formazione dei Pantera. Ci sono purtroppo verso la fine degli anni 90, avvicinandosi ai 2000, problemi di droga per Phil Anselmo, tanto che per un'overdose ebbe anche un arresto cardiaco. Il suo problema con la droga causò numerosi disagi alla band, tanto che occorsero ben 4 anni per arrivare al 2000 con un nuovo album che sarà anche l'ultimo della loro discografia. Reinventing the Steel arrivò al numero 4 in America. Già da diversi anni comunque la band aveva dei malumori interni che portarono i Pantera nel 2003 allo scioglimento. Dopo questo scioglimento i vari musicisti intrapresero nuovi progetti, abbiamo già detto dei Down, oppure i Damage Plane, creati dai due fratelli Darrell e Vinnie Paul, con i quali incisero anche un album nel 2004. E purtroppo, storia triste e recente, sapete che l'8 dicembre del 2004, durante un concerto in America, concerto dei Damage Plane, dopo pochissime canzoni, un pazzo, solo così si può definire, salì sul palco e sparando all'impazzata uccise Dimebag Darrell, ferì altre persone. Andiamo praticamente a concludere allora il nostro appuntamento di questa sera, rimandandovi alla prossima settimana, al prossimo lunedì, ancora una volta con Arden Davy dalle 20 alle 21 su Rock FM. Un grazie per avermi seguito, un grazie allo sponsor Mariposa Dischi, a Simone che ha preparato il tutto. Ci ritroveremo questa sera, se vi va, al Dress Code di Ponsacco, Pisa, insieme a Claudia. Vi lascio con Fucking Hostile. What's